Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. La battaglia al virus in Italia non è ancora vinta, quindi è giusto tenere alto il livello d'attenzione e dovunque necessario assumere immediatamente misure che siano adeguate per stoppare l'eventuale diffusione del contagio. Lo avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il ministro della Salute Speranza, che insomma continua a raccomandare di non pensare che il virus sia fuggito, si sia dileguato, ancora circola, lo dimostrano tra l'altro diversi focolai che continuano a accendersi nel nostro paese, in Italia, da nord a sud. E oggi ha fatto particolare scalpore quello che è partito in Veneto. Sapete che è la regione che è stata presa a modello in questi mesi di emergenza rispetto alla Lombardia o altre regioni, perché appunto è stata gestita in un certo modo, sono stati fatti tamponi a tappeto, sono stati circoscritti i focolai che c'erano inizialmente, a partire da Vaux e Euganeo. Ne abbiamo parlato qui più di una volta con il professor Crisanti, che di quell'esperimento, di quel contenimento, eccetera, è stato l'ideatore e anche il fautore. Zai è molto indignato per questo focolaio, di cui poi vi spiegherò l'origine, e chiede misure più restrittive, dice che le annuncerà da lunedì, e anche addirittura il ricovero coatto per chi non si vuole fare curare. Ne parleremo col professor Palù dell'Università di Padova, e poi ci occuperemo anche, fra le molte altre cose, del rapporto annuale dell'Istat, che dice che, come se non bastasse, il coronavirus ha accentuato nel nostro paese le disuguaglianze, ha pesato soprattutto sulle persone più fragili da un punto di vista socio-economico. Tante le cose naturalmente da raccontarvi, quindi questo è giusto un'anticipazione di alcuni degli approfondimenti che ci saranno con gli ospiti. Tra poco sintesi della giornata e, come sempre, le vostre riflessioni, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure al numero per WhatsApp, che è 349-238-6666, 349-238-6666, il Twitter di Effetto Notte durante la diretta, oppure Roby con la Y, linetta bassa, Giordano. L'andamento del Covid-19 in Italia ancora su, i nuovi contagi più 223, le vittime nelle ultime 24 ore sono 15. E in Veneto l'indice di contagio risale, indignazione del presidente Zaia che chiede regole più dure e ricovero coatto per chi rifiuta le cure. La politica italiana, maggioranza divisa in Europa sul voto per il MES, nel decreto rilancio esteso il superbonus, stallo intanto sul provvedimento semplificazioni. Il rapporto annuale dell'Istat, l'emergenza coronavirus in Italia, dice, ha accentuato le disuguaglianze, le difficoltà pesano soprattutto su donne e giovani. Francia, Jean Castex è il nuovo premier nominato da Macron dopo le dimissioni di Edouard Philippe. L'antitrust avvia il procedimento contro Alitalia, biglietti cancellati anche senza lo stop per il Covid. Partiamo quindi, come sempre, dai dati del Ministero della Salute sul coronavirus in Italia. Sono 223 oggi nuovi contagiati, in aumento rispetto a ieri quando erano stati 201. Il numero totale dei casi così sale dall'inizio dell'epidemia in Italia a 241.184. Le vittime nelle ultime 24 ore sono invece 15, in calo rispetto alle 30 di ieri, e quindi i morti per coronavirus nella totalità salgono a 34.833. Contagi in salita in Italia per il quinto giorno consecutivo. Sono 223 i nuovi casi, 22 in più del giorno prima, ma calano le vittime, 15 in tutto, la metà rispetto a giovedì. Tra i nuovi casi, 115 sono in Lombardia, che ha registrato 4 nuovi decessi. E in Veneto, improvvisa fiammata dei contagi legata ad un focolaio in un'azienda vicentina, un cui dirigente appena rientrato da un viaggio in Bosnia, nonostante i sintomi, aveva rifiutato il ricovero. Il tasso, da 0,43, è così salito a 1,63. Il governatore, Luca Zaia. Ma io non so chi fare i complimenti, sinceramente, da rischio basso a rischio elevato, ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. Immediate le reazioni all'esortazione di Zaia di usare maggior severità con ricoveri coatti per chi, pur malato, li rifiuta. Non è la strada, ha commentato l'epidemiologo padovano Crisanti, in accordo con Pierpaolo Sileri, viceministro della salute. Ordinanze più severe non servono, si tratta, ha spiegato Crisanti, di capire l'origine dei focolai e applicare le misure per spegnerli. Intanto l'AS Toscana Centro ha scoperto un nuovo cluster di 9 positivi, tra cui un neonato, nel comune di Impruneta. Si tratterebbe di 2 nuclei familiari piuttosto giovani. Il coronavirus potrebbe essere stato contratto da uno dei componenti durante una trasferta di lavoro fuori Toscana. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E torneremo su tutto questo, vi dicevo, col professor Giorgio Palù. Nell'ultima settimana i casi totali nel nostro paese sono leggermente diminuiti, ma spiega Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, riguardo i dati del monitoraggio settimanale fatti tra il Ministero e l'Istituto Superiore di Sanità sui casi di Covid in Italia, continua, dice Rezza, la circolazione virale, tanto è vero che gli RT, cioè gli indici di contagiosità, tendono ad aumentare o a diminuire a seconda di dove si formano i focolai, e in alcune regioni il numero di focolai è ancora abbastanza rilevante. Quindi per Rezza serve continuare a avere comportamenti adeguati, mascherine nei luoghi pubblici e distanziamento sociale. E il ministro della Salute Speranza ha detto che è chiusa la stagione dei tagli nella sanità. Noi dobbiamo dire con grande nettezza che è definitivamente chiusa la stagione dei tagli alla spesa sociale. È definitivamente chiusa la stagione dei tagli al Servizio Sanitario Nazionale. E passiamo alle misure economiche del governo. C'è via libera all'estensione del 31 luglio, dal 31 luglio al 31 agosto, del periodo di congedo straordinario al 50% della retribuzione previsto per i genitori di bambini fino a 12 anni dipendenti privati. Lo prevede un emendamento al decreto legge rilancio approvato dalla Commissione Bilancio della Camera. Prorogati i contratti a tempo sospesi a causa della pandemia, esteso il superbonus al 110% anche per le seconde case, ma sono escluse le abitazioni signorile, ville o castelli, previsti 40 milioni ai comuni delle zone rosse esclusi dai fondi. La maggioranza si spacca in Europa, con probabili conseguenze anche in Italia. PD e Movimento 5 Stelle si dividono sul voto al MES in Commissione Economica a Bruxelles. Il voto riguardava l'atto delegato che inserisce l'obbligo di rendicontare le spese per la crisi sanitaria in caso un paese chieda accesso alla liquidità del Fondo Salva Stati e spenda quindi quelli per il Covid. La Commissione vota a favore insieme al PD, mentre i 5 Stelle contro. In Italia intanto viene esaminato in Commissione Bilancio alla Camera il decreto rilancio con il via libera in un emendamento fino al 31 agosto dei congedi parentali e il super bonus esteso per le seconde case, escluse quelle di superlusso. Ma è stallo sul decreto semplificazioni che andrà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana. Nessun condono, dice il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, ma a dividere PD e 5 Stelle ci sono l'abuso d'ufficio e il codice appalti. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E l'epidemia di coronavirus si è abbattuta sulle persone più fragili, acuendo le significative disuguaglianze che affliggono il nostro paese. L'ha detto l'Istat nel rapporto annuale. Una prova ne sono i differenziali sociali riscontrabili nell'eccesso di mortalità causato dal Covid-19, con i meno istruiti maggiormente colpiti. Sul mercato del lavoro hanno risentito dell'emergenza donne e giovani, più presenti nel settore dei servizi, e si stima che la paura del Covid possa aver causato 10.000 nati in meno nel nostro paese, che il 12% delle imprese pensa di ridurre l'occupazione. Per parlarne sarà ospite qui a Effetto Notte la sociologa Chiara Saraceno. La politica. Il presidente del Consiglio Conte ha scritto ad alcune regioni per chiedere di intervenire in vista delle prossime elezioni sulle leggi elettorali regionali per garantire la parità di genere. Dalla ricognizione effettuata e resa nota dal ministro degli affari regionali Francesco Boccia in un'informativa al Consiglio dei Ministri, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Val d'Aosta, Puglia e Calabria non si sono adeguate alle disposizioni di legge per garantire appunto l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali, non prevedendo la seconda preferenza o le quote di lista. E parliamo di vacanze difficili, tra limiti imposti dalla pandemia e infrastrutture che non sono mai all'altezza. Con il primo weekend di luglio l'estate entra nel vivo, ma in Liguria la marcia di avvicinamento alle località della Riviera resta quanto mai complicata. I cantieri per la messa in sicurezza delle gallerie allungano e rendono incerti i tempi di percorrenza. Gli albergatori lamentano prenotazioni disdette e proteste dei villeggianti. E mentre il governatore Toti minaccia un esposto in procura per le difficoltà dei trasporti sanitari, con le ambulanze intrappolate negli ingorghi. Aspi annuncia che domattina saranno riaperte 10 gallerie, 7 sulla 26 e 3 sulla 12 e via via altre. Entro la fine della prossima settimana il quadro della viabilità dovrebbe migliorare, anche se aggiunge la concessionaria. Per il completamento dei lavori bisognerà attendere la fine di luglio. Ma in termini di traffico è un weekend torrido anche lungo la dorsale adriatica. Il tratto della 14 tra Marche, Abruzzo e Molise è un altro percorso ad ostacoli tra viadotti sotto sequestro e lavori nelle gallerie. Code infinite anche qui, ricadute sul turismo. Accelerare i lavori e ridurre i pedaggi è la richiesta al governo avanzata in un documento da imprese e sindacati. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'antitrust ha avviato due procedimenti istruttori e due subprocedimenti cautelari nei confronti di Alitalia e Volotea. Alitalia finisce nel mirino dell'antitrust. Sotto esame ci sono i biglietti cancellati, causa emergenza coronavirus, per viaggi programmati in date in cui non erano però previste limitazioni alla circolazione. L'antitrust ha deciso di avviare una procedura di istruttoria dopo le numerose segnalazioni ricevute dai consumatori. Oltre ad Alitalia, l'autorità ha avviato un procedimento gemello anche nei confronti della compagnia low cost spagnola Volotea. Le due compagnie hanno cancellato i biglietti in periodi in cui non erano previsti limitazioni alla circolazioni da provvedimenti governativi, rileva l'antitrust, offrendo ai consumatori l'erogazione di un voucher invece di un rimborso del prezzo del biglietto già pagato. Secondo l'autorità, inoltre, le due compagnie non hanno fornito un'adeguata informazione ai consumatori sui loro diritti in caso di cancellazione del viaggio. Per capire come finirà, bisognerà ora attendere la conclusione dell'istruttoria. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora spostiamoci sulle notizie dall'estero. Jean Castex è stato nominato dal presidente Emmanuel Macron nuovo primo ministro francese dopo le dimissioni di Edouard Philippe. Lo rende noto l'Eliseo. Philippe lascia il suo posto di primo ministro definitivamente dopo essere rimasto 3 anni in carica. Ex collaboratore di Nicolas Sarkozy, Castex ha 55 anni, era stato nominato a inizio aprile responsabile interministeriale incaricato di gestire la fase di uscita da lockdown, la fase 2, nel quadro della lotta al coronavirus. E ora gli Stati Uniti, giorno domani dell'indipendenza, 4 luglio, festa dell'indipendenza delle 13 colonie del Regno Unito avvenuta nel 1776. Un 4 luglio senza precedenti, la festa americana per eccellenza che celebra l'indipendenza del paese, avviene mentre gli Stati Uniti sono sotto assalto di un avversario che finora li ha tenuti in scacco, la pandemia da coronavirus. Con casi quotidiani che aumentano di oltre 50.000 al giorno, focolai che si espandono a sud e a ovest della nazione, scatenano nuove crisi negli ospedali locali, governatori dal Texas alla California alla Florida, i tre più popolosi stati, hanno raccomandato ai residenti di celebrare in casa, hanno cancellato drasticamente e ridimensionato celebrazioni, parate e fuochi d'artificio che mobilitano abitualmente oltre 150 aziende da una costa all'altra. I casi ormai salgono in 40 stati su 50. Chicago e la Pennsylvania, come già New York, imporranno quarantene a viaggiatori in arrivo da stati considerati a rischio. Il presidente Donald Trump, tuttavia, insiste che la pandemia è sotto controllo e che la sua amministrazione, pesantemente sotto accusa, la sta gestendo al meglio e ha organizzato alla sua presenza per questa sera un grande spettacolo di fireworks a Mount Rushmore in South Dakota, dove sono attese 7.500 persone senza obbligo di mascherine e social distance. Sulla montagna sono intagliate nella roccia i volti di grandi presidenti Roosevelt, Lincoln, Jefferson e Washington, ai quali Trump vorrebbe essere paragonato nonostante sondaggi che lo bocciano. E domani, sabato, sulla grande molla spianata della capitale Washington, Trump ha in programma un encore. Marco Valsani, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New York. Torniamo sulle notizie italiane con la cronaca. Il video dell'aggressione, ripreso da alcuni testimoni, fa rabbrividire. Si vede un uomo a terra, inerme perché è già colpito, e tre individui che senza pietà tornano su di lui con calci all'addome e poi alla testa. Massacrato di botte da 3 o 4 giovani che lui, ubriaco, aveva infastidito poco prima davanti a un bar. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì a Jesolo, già teatro di polemiche per le risse della Movida. Vittima un 38enne tunisino, poi ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. Tre gli autori identificati dai carabinieri, denunciati con l'accusa al momento di lesioni personali gravissime. Tre trentenni incensurati della cittadina balneare. Nel video della brutale aggressione, ripreso da alcuni testimoni, si vede l'uomo a terra, immobile, colpito ripetutamente con calci e pugni, all'addome e alla testa. Video che ha catalizzato l'odio sui social, con commenti del tipo «se l'è cercata, hanno fatto bene». Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo di spazio. L'industria spaziale italiana conquista contratti per oltre 1,5 miliardi di euro e la leadership di importanti programmi nei settori dell'osservazione della Terra e dell'esplorazione di Luna e Marte. Questo è il risultato della riunione del Comitato di Politica Industriale dell'Agenzia Spaziale Europea, che ha assegnato i primi contratti relativi ai programmi approvati nel Consiglio Ministeriale di Siviglia di novembre. Per chiudere, sport, gite, arrampicate, traversate in quota, la montagna. Quest'anno appare il luogo naturale dove trascorrere le giornate all'aria aperta, facendo sport o meno, insomma, parliamo più che altro di turismo, dopo il lockdown dei mesi scorsi, ma in sicurezza e rispettando le regole anti-Covid. Vacanze verticali è il reportage che andrà in onda domenica 5 luglio alle 8.15, questa è un'anticipazione. Andare in montagna dopo il lockdown, una vacanza tra sgambate nelle vallate in alta quota per riconquistare una parvenza di normalità. Quest'anno, dopo settimane chiusi in casa per fronteggiare l'epidemia di coronavirus, la montagna appare come una destinazione dove riappropriarsi di grandi spazi e vita all'aria aperta. Regole, mascherine e gel disinfettanti sono però arrivati anche nei rifugi naturali approdo dopo camminate, scalate e traversate in quota. Il Club Alpino Italiano ha infatti stilato un decalogo su come usare i rifugi durante l'estate. Caffè, pranzi e pernottamenti sono così all'insegna del distanziamento sociale e dove non è possibile dormire in sicurezza c'è sempre la soluzione tenda da portare nello zaino e montare vicino al rifugio. Ci si attende un aumento delle presenze tra il 5 e il 7%, dice il presidente del CAI, Vincenzo Torti. Si parla di un incremento che per i numeri abituali della montagna sono decisamente rilevanti. I rifugi, da nord a sud, si sono organizzati per rendere le vacanze 2020 spensierate e sicure. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E con questo si chiude questa prima parte di Effetto Notte, così cominciamo subito dopo la viabilità a affrontare alcuni temi in primo piano con gli ospiti. I vostri commenti sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure i WhatsApp al 349-238-6666, dove Francesco, per esempio, scrive Rezza quindi non demorde, si aspetta la seconda ondata che però non arriva. Lo prendo un po' in giro Francesco, non c'è molto da prendere in giro, nel senso che poi della seconda ondata si parla eventualmente per l'autunno inverno, quindi per ottobre, novembre, non adesso. Non c'è però nulla da ironizzare, nel senso che le misure di prevenzione vanno mantenute, è dimostrato da quello che sta succedendo, per esempio, tra i vari focolai da nord a sud in Veneto, di cui parleremo tra pochissimo. Poi un altro ascoltatore invece dice questo dice: per fortuna in questo buio momento, non si firma, storico per il nostro paese, abbiamo avuto Speranza come ministro della sanità, che con la sua cultura ed esperienza ci ha salvato e continua a ricordarci come dobbiamo comportarci. Quindi vedete, posizioni diverse rispetto alle dichiarazioni che vengono fatte dagli esperti. Ma tra poco appunto ci concentriamo proprio sulla situazione in Veneto. Torno ratta con la Folgore. Logica, spazio, tempo, module block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchi, tocca correre proprio perché sono così ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta, di sintesi della giornata che vi ho appena concluso e poi gli ospiti ad approfondire alcuni temi in particolare. Naturalmente i vostri commenti tra la pagina Facebook di Effetto Notte e i WhatsApp al 349-238-6666. Per esempio dice Bruna, a proposito del caso del Veneto di cui parleremo tra pochissimo: non sapevo si potesse rifiutare il ricovero, dovrebbe essere obbligatorio da subito proprio per evitare che il contagio si diffonda. Allora partiamo proprio da questo, cioè come sempre a proposito dell'andamento del coronavirus in Italia, nella prima parte della puntata vi ho riassunto i dati aggiornati forniti dal bollettino del Ministero della Salute quotidianamente, un bollettino che oggi, ve lo ricordo, registra 223 nuovi contagi, 15 vittime nelle ultime 24 ore e secondo il report settimanale relativo al monitoraggio fatto in collaborazione tra Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità, sebbene, leggo, le misure di lockdown in Italia abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione da SARS-CoV-2, persiste una trasmissione diffusa del virus che, quando si verificano condizioni favorevoli, provoca focolai anche di dimensioni rilevanti, da cui il richiamo a mantenere alta l'attenzione, come avete sentito anche da Rezza, che dice serve continuare ad avere comportamenti adeguati, mascherine nei luoghi pubblici e distanziamento sociale. E a proposito degli dati e degli indici di contagio, c'è stata questa improvviso esplodere di focolaio in Veneto, regione che è stata finora portata a modello nei mesi più pesanti dell'emergenza coronavirus, dove la battaglia sembrava vinta, ne abbiamo parlato lungamente, se ne è parlato praticamente fino a ieri, e Luca Zaia, presidente della regione, ha detto che ha visto risalire il rischio da basso a elevato, con l'R con T, cioè l'indice di contagio, salito da 0,43 dov'era a 1,63. Sentiamo come l'ha spiegato oggi Zaia. Sta accadendo quello che, insomma, vi avevo preannunciato, insomma, che anche voi prevedevate. Intanto siamo passati, ve lo dico io in anteprima, da rischio basso a rischio elevato, perché abbiamo un R con T che è dell'1,63%. Vi ricordate che avevamo 0,43? Ma io non so chi fare i complimenti, sinceramente. Da 0,43 a 1,63, da rischio basso a rischio elevato. Ma io avrei scritto elevatissimo, perché se continuiamo ad andare in giro senza l'uso della mascherina negli assembramenti, continuiamo a pensare che i complottisti abbiano ragione e il virus sia un'invenzione delle big pharma, dei marziani o delle astronavi, è inevitabile che poi vengano fuori ste robe. E il focolaio sarebbe partito, vi sintetizzo, da un manager della Laserjet di Poiana Maggiore, nel Vicentino, che ha fatto un viaggio nei Balcani. Ha avuto un incontro con un uomo di 70 anni malato, è tornato in Italia e ha partecipato, senza sapere di essere infettato, prima a un funerale, poi la sera a un compleanno. Ha cominciato ad avere alcuni sintomi, quindi ha fatto il tampone, che è risultato positivo. Non ha voluto fare però la quarantena a casa, come sarebbe obbligatorio, e poi ha rifiutato anche il ricovero e quindi ha continuato a incontrare persone su persone, e man mano la sua situazione è diventata più grave. A questo punto è stato intubato in ospedale. Sentiamo l'indignazione sempre del presidente del Veneto Zaia. Allora, siccome io capisco che le motivazioni e il richiamo a quello che è l'etica, il rispetto non servono, io spero che qualcuno si decida. Guardate, noi intanto lunedì presentiamo un'ordinanza, vi anticipo già, per inasprire tutto quello che sono le regole, però abbiamo le armi spuntate, no? Perché non riusciamo, cioè, se fosse per me prevederei la carcerazione, potete scriverlo senza problemi, cioè non esiste che un positivo vada in giro a prescindere. E saluto a questo punto Giorgio Palù, ex presidente della Società Europea di Virologia e professore emerito di microbiologia all'Università di Padova. Professor Palù, benvenuto, buonasera. Buonasera. E quindi il presidente Zaia ha ordinato, anzi ha annunciato, una nuova ordinanza restrittiva per inasprire le regole, anche se bisogna dire, professor Palù, che finora il presidente Zaia, quindi appunto la sua regione, è stata gestita in modo esemplare, tutti lo hanno riconosciuto, qualsiasi schieramento politico eccetera. Forse però è stato anche il presidente tra le regioni che erano inizialmente più colpite a correre di più poi sulle riaperture? Ma guardi, più che entrare in questioni di natura politica amministrativa, io vorrei discutere eventualmente dei dati oggettivi per quello che sono, se hanno un riscontro scientifico. Allora, io seguo tutti i giorni, tutte le sere, quelli che sono i nuovi casi incidenti nel Veneto, e vi posso dire che da 15 giorni i casi oscillano tra 0, 1, 5, 11, 8, 6, 5, ieri 11. Ecco, quindi ci terrei a dire che questa valutazione dell'R con T, che è il numero di base di riproduzione del virus che correla con l'indice di contagiosità, che all'inizio si chiama R con 0, quando tutta la popolazione è esposta, diventa R con T quando il virus è già circolato. Questo a significare che c'è uno stato di immunizzazione nella popolazione. Ecco, nel Veneto la circolazione del virus è stata molto relativa, intorno al 2-3%, a differenza di certe parti della Lombardia, dove sembra che il virus si sia diffuso anche al 20% e più della popolazione. a calcolare oggi l'R con T ha poco significato, ecco, lo dico, perché questo viene misurato sul periodo di 10 giorni circa, andrebbe misurato sul periodo di alcune settimane, perché si accendono piccoli focolai, quindi quello che andrebbe misurato, ecco, per dare un'idea di come si muove il contagio, sono il numero di casi incidenti, che io le ho appena, diciamo, sintetizzato, e quello che è lo stato delle rianimazioni. Stiamo discutendo di un caso che ha trasgredito quelle che sono le norme, non solo di precauzione, ma anche a quelle che dovrebbero essere, diciamo, regole di comportamento e di responsabilità. Ma come sa, nessuno in una democrazia occidentale può coercire una persona, costringerla a ospedalizzarsi o stare a casa se questa poi si muove. Però mi perdoni, quindi, Palù, perché Sileri oggi, viceministro della Salute, ha detto, a proposito dell'annuncio di ricovero coatto e di misure più stringenti di Zaia da lunedì, Sileri ha detto: ma c'è già la quarantena è già un metodo di trattamento obbligatorio e violarlo è già punito, ma si tratta di casi isolati. Quindi ci sarebbe, esatto, già la quarantena. La quarantena c'è e credo che sia il sistema migliore, perché abbiamo imparato da questo virus, da questa epidemia, ma già lo sapevamo dal 2002, dal caso della SARS-CoV-1, il primo virus della SARS, che questo è un virus che ha diffusione in ospedale, quindi il metodo migliore di prevenire il contagio è l'isolamento domiciliare. Che però non è avvenuto in questo caso. Non è avvenuto, ma voglio dire, questo mi pare sia un'eccezione, ecco, come queste cose possono avvenire lei lo sa, insomma. In Cina non sono sicuramente avvenute, c'era anche la pena di morte per chi propagava l'infezione, da noi queste cose non esistono. Professor Palù, Crisanti, che è stato finora uno dei fari appunto della gestione del modello Veneto nell'emergenza coronavirus, a proposito di questo caso oggi in Veneto, di quello che ha detto Zaia dice che non basta la multa di 1.000 euro, sarebbe interessante cominciare intanto a fare le multe, ha detto Crisanti. E poi ha detto: Zaia si avvale in questo momento di due esperti, uno che coordina tutti i laboratori di microbiologia del Veneto, immagino che sia lei, professor Palù, e l'altro che è il suo virologo di fiducia. Entrambi, dice Crisanti, hanno firmato la lettera di Zangrillo, quella dei 10 ricercatori scienziati di cui ho già parlato in questi giorni, che dice che il virus non ci sta più e ora improvvisamente lo riscopre Zaia, dice Crisanti, insomma in tono polemico. La realtà sarà caratterizzata da continui focolai, bisogna non farseli sfuggire di mano. Che risponde, professor Palù? Ma rispondo, ecco, che chi gioisce o fa dell'ironia o si compiace che il virus faccia la sua strada, e torno a dire, tutti i dati stanno indicando che l'epidemia sta scendendo, io trovo che fa un'operazione di sciacallaggio disonesta dal punto di vista scientifico, etico e professionale. Quindi non trovo opportune queste uscite, chi esso sia. Ecco, devo dire che io mi confronto con esperti internazionali, credo di aver svolto il mio ruolo come virologo a livello internazionale, mi sono riconosciute, di altri esperti non conosco. In questa fase ho visto molti sedicenti virologi che poi hanno anche fatto l'outing per dire che non lo sono, parlare di cose che non sono il loro campo di interesse. Che non è il caso di Crisanti, però, professore. Devo dire che ecco, trovo queste critiche veramente dal punto di vista sia professionale che etico, poco opportune e serie. Questo compiacimento è da sciacalli. Forse, professor Palù, più che compiacimento voleva dire, io ho avvertito, penso, provo a interpretare il suo pensiero, ho avvertito più volte Zaia, ma evidentemente le cose poi vanno diversamente. Ma guardi, le cose non è che vanno diversamente. Io ho firmato quel documento e mi sembrava persino banale, pertanto diceva la verità. Stava dicendo due cose fondamentali. Uno, che rianimazioni si stanno svuotando, che i casi non sono più gravi come l'esordio dell'epidemia, e terzo, e due, che ci sono evidenze virologiche, e sono almeno 10 lavori pubblicati, e questi fanno scienza internazionale, che la carica virale, almeno nel nostro emisfero, si sta abbassando. E guardi, quando un'epidemia inizia, tutte le epidemie, anche pandemie, hanno una fine, quindi siamo nella fase discendente come indicano tutti i parametri. È logico che ci può essere, nessuno ha mai detto che non dobbiamo mantenere alta l'attenzione, quindi esiste il principio della cautela. Io stesso come cittadino riscontro che il sabato sera, soprattutto la sera, ci sono questi affollamenti e vedo le persone senza mascherina, nonostante diciamo la regione, gli enti sanitari, chi è preposto alla, diciamo, alle istituzioni sanitarie stia suggerendo che bisogna ancora mantenere tutte le precauzioni. Nessuno ha mai detto che non vadano mantenute. Quindi quella lettera o quella era soltanto una, diciamo, annotazione che si rifaceva a nuove evidenze, evidenze che erano sotto gli occhi di tutti e che credo nessuno possa negare, ma non nascondeva assolutamente quelli che possono essere i pericoli di un'epidemia di un nuovo virus che per la prima volta si affaccia all'umanità. C'è un ascoltatore che scrive: Roberta, questa cosa della persona intubata mi preoccupa molto. Sapevo che era contagiata, ma non che fosse così grave. Un mio collega lo aveva incontrato dal tabaccaio, avevano trascorso un po' di tempo insieme. Precauzionalmente, con decisione congiunta, abbiamo preferito lasciarlo a casa. Questo collega dice: il tampone speriamo lo farà settimana prossima. Che cosa consiglia, se dovesse dare proprio un consiglio sinteticamente, professor Palù, a questa persona che avrebbe incontrato al tabaccaio il manager dal quale sarebbe partito poi il focolaio? Ma guardi, stiamo parlando della stessa persona di Vicenza, no? Dell'industriale che era stato in Serbia, che era venuto a contatto con un soggetto sì, positivo. E un ascoltatore mi scrive che un collega lo ha incontrato e che quindi che cosa deve fare adesso? Farà il tampone, aspetterà di vedere. L'ascoltatore non può decidere se il soggetto vada intubato. L'intubazione... No, diceva questo. No, professore, chiedeva, era preoccupato perché dice: un mio collega lo ha incontrato al tabaccaio, questa persona che poi quest'uomo che poi è finito in ospedale, quindi dice vabbè, adesso farà il tampone, è inutile dare altri suggerimenti, no? Deve sottoporsi ai test e vedremo che cosa succede. Senta, un'ultima cosa, professor Palù, questa ricerca dice che di tutte le 8.000 mutazioni studiate nel virus SARS-CoV-2 ce n'è una al momento che è bene studiare e tenere d'occhio, si chiama D614GC, è avvenuta nella sua principale arma del coronavirus, cioè la proteina Spike, che gli apre la strada nelle cellule umane. È diventata dominante nel mondo, questa mutazione permette al virus di replicarsi meglio e più velocemente all'interno delle cellule, rendendolo più contagioso. Non si sa ancora invece se lo rende anche più cattivo, come precisano sulla rivista Cell i ricercatori della Duke University e del Laboratorio Nazionale di Los Alamos negli Stati Uniti. Che ne pensa, professore? Possibili mutazioni? Allora, è una pubblicazione che è uscita oggi in preprint su Cell. Io avevo letto già due mesi fa in quei specie di registri, si chiamano BioRx e MedRx, era stata diciamo descritta. È una mutazione, non come l'ha definita lei, mi permetto se la correggo. Prego, prego. È una modificazione a livello dell'aminoacido 614 del gene che codifica, cioè o meglio della proteina S della spicola, quella che è la proteina che è sulla superficie del virus che lega il recettore, è una mutazione da acido aspartico D, che è il simbolo biochimico dell'acido aspartico, in G che è glicina. L'acido aspartico è un aminoacido carico, la glicina non lo è. È una mutazione che però all'inizio non c'era one, ma adesso è una mutazione che rappresenta il virus che circola attualmente da noi, circola in America, circola in Brasile. Quindi ecco, è già quello in circolazione. È il virus in circolazione, quindi è una delle tante mutazioni, sono circa 8.000 le mutazioni. Questo virus muta molto meno degli altri virus tipo ARNA come l'influenza e l'HIV, perché è un enzima che corregge le errate incorporazioni di nucleotidi. Ecco, quindi ce ne sono tante, ma questa è l'unica che sembra sia correlata a un acquisto di una nuova funzione. Qual è questa nuova funzione? Sembra che questo virus con questa mutazione abbia una capacità di replicare in cellule che esprimono il recettore umano e anche cellule di origine umana in maniera più rapida. È stata correlata anche in alcuni soggetti con una carica virale più elevata. Quindi lei sa che la carica virale è direttamente correlata con la contagiosità. Non si è assolutamente dimostrato che sia correlata con la virulenza. Bene, allora qua cattivo. Preciso, cos'è la virulenza? La virulenza è la cattiveria di un virus. È di fatto la attuale capacità di generare patologia. Quindi è il grado della patogenesi. Quindi un virus è virulento per un'acquisizione di solito di una nuova funzione genetica. Ecco, quello che ancora non sappiamo è se questo virus sia più virulento, il virus che circola. La buona notizia è che gli anticorpi che vengono prodotti sia nei soggetti che sono guariti dall'infezione, sia nei primi volontari che sono stati vaccinati con gli allestimenti vaccinali che, come sa, oggi già si stanno preparando in varie parti del mondo, ormai ce ne sono 140 di questi vaccini, diciamo, potenziali, producono anticorpi che neutralizzano anche questo virus. Quindi sembra che questa mutazione in qualche misura sia correlata probabilmente con una diversa esposizione della proteina di superficie che facilita l'infettività del virus. Ma ecco, questi virus sono neutralizzati dagli anticorpi che vengono prodotti. Quindi una buona notizia è che il vaccino sicuramente sarebbe efficace anche contro questo virus. Bene, professore, qui ci dobbiamo lasciare, insomma, poi ci riaggiorneremo per come andranno le cose, vedremo autunno-inverno, speriamo bene. Grazie, professor Giorgio Palù. Ringrazio. Buon lavoro, buona serata. Breve pausa di riflessione, andiamo di corsa e torno tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Gli effetti della pandemia si sono innestati su una situazione sociale caratterizzata da forti disuguaglianze, più ampie di quelle esistenti nel 2008-2009. La crisi determinata dall'emergenza rischia di acuire drammaticamente divari sociali ed economici già giunti a livelli inaccettabili, e ciò vale, come il rapporto rileva, soprattutto per il lavoro. Tutti i principali indicatori mostrano, sin dallo scoppio della crisi del 2008, un aumento delle disuguaglianze occupazionali di natura territoriale, generazionale e per titolo di studio, che rischiano di essere aggravati nei prossimi mesi. Questa è la sintesi che ha fatto oggi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, il presidente della Camera Fico a proposito del rapporto annuale dell'Istat, che appunto rileva che l'epidemia di coronavirus ha decisamente accentuato le disuguaglianze che già esistono da tanto tempo nel nostro paese. Si è abbattuta l'epidemia sulle persone più fragili. Una prova ne sono i differenziali sociali, cioè la più alta mortalità tra le persone meno istruite. Poi sul mercato del lavoro, cioè il 12% delle imprese, secondo il rapporto Istat, che pensa di ridurre l'occupazione. Ne hanno risentito dell'emergenza soprattutto donne e giovani più presenti nel settore dei servizi. E poi c'è il dato sulla natalità: si stima che la paura di Covid possa aver causato 10.000 nati in meno. Ne voglio parlare con una sociologa per antonomasia, che è Chiara Saraceno. Buonasera, professoressa Saraceno. Quindi la situazione era già piuttosto difficile prima, aggravata dall'epidemia di coronavirus. L'ascensore sociale, quello che prima permetteva di nascere anche in una situazione socio-economica svantaggiata, ma di poter ambire a crescere, già era intoppato fino a qualche tempo fa, adesso è completamente bloccato. Secondo lei, professoressa Saraceno, in questo momento che cosa può dare la spinta al paese? Perché siamo a un bivio, no? Rischiamo di andare ancora più a fondo oppure di ripartire, ma come? No, intanto più che bloccato è che scende. Mentre prima, per le generazioni precedenti, l'ascensore sociale, almeno per una quota, grosso modo un quarto della popolazione, saliva, adesso invece per più di un quarto della popolazione scende, quindi è più facile scendere che non salire per le generazioni nascite dopo i 70. E si aggiunga che ormai quelli che sono oggi sui 30-35 anni hanno subito già la crisi del 2008, quindi sono veramente una generazione particolarmente svantaggiata. Che cosa si può fare? È difficile trovare una ricetta univoca, ma sicuramente qualsiasi cosa si farà, si deciderà di fare per la ripresa, deve porsi il problema del contrasto alle disuguaglianze, cioè non può ripetere, non può semplicemente innestarsi sulle disuguaglianze precedenti e andare avanti così. Deve invece in qualche modo invertire la rotta, che significa innanzitutto colmare i divari di istruzione, colmare i divari digitali, cioè colmare tutte quelle asimmetrie nell'accesso alle risorse, nelle competenze, che hanno questo sì bloccato anche lo sviluppo dell'Italia. Purtroppo questo periodo, se penso alle più giovani generazioni, ha allargato per esempio la povertà educativa, ha allargato il rischio della dispersione scolare. Tra l'altro l'Italia ha la più alta percentuale di giovani che non studiano e non lavorano, che è una situazione gravissima, no? Per un paese come il nostro. E purtroppo con quello che è successo, con la chiusura delle scuole, la distribuzione disuguale della didattica a distanza, dati di vari digitali, e anche la difficoltà di, cioè le disuguali competenze nell'utilizzare la didattica a distanza, ha fatto sì che quelli che di noi si preoccupano delle condizioni dei bambini, dei ragazzi e adolescenti sono preoccupatissimi, perché si sa che moltissimi sono, cioè lo stesso MIUR fino a un 30% degli studenti non abbia ricevuto nulla in questi mesi. Professoressa, abbiamo ancora un minuto, le faccio sentire un passaggio di Blangiardo, presidente dell'Istat, sulla natalità. Nel periodo post-Covid la caduta della natalità potrebbe anche subire un'ulteriore forte accelerazione, non essendovi dubbio che la scelta sempre più impegnativa se fare o meno uno o un altro figlio andrà sempre più maturando entro condizioni di insicurezza e di difficoltà economiche, non solo, sulla cui durata non è ancora dato sapere. A tale proposito, le nostre simulazioni prospettano nell'immediato futuro, anche solo per effetto del clima di incertezza e paura associata alla pandemia in atto, un calo nell'ordine di poco meno di 10.000 nati, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021. Professoressa Saraceno, per chiudere, questo è un indicatore che era già piuttosto preoccupante prima del Covid, adesso comunque ancora di più dà il senso dell'incertezza rispetto al futuro. E d'altra parte, come si fa a azzardarsi ad avere un figlio se non si sta sicuri per il lavoro e se il lavoro durerà? Questo riguarda i più giovani, ma riguarda moltissimo anche le donne, che sono state colpitissime dalla pandemia, per cui sicuramente sarà drammatico se chi vuole avere figli non riuscirà a averli perché non se lo può permettere. E quindi questo è un monito importante per questo governo, che sicuramente si trova in un periodo molto molto difficile, ma che deve sapere che ha delle sfide enormi davanti che deve sicuramente affrontare. Grazie professoressa Chiara Saraceno. Grazie a lei. Grazie, buona serata. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi per passare al premio Strega. Stanotte è stato decretato il vincitore del premio Strega 2020, che è il più importante premio letterario italiano, è lo scrittore toscano Sandro Veronesi col suo libro Il Colibrì, che ha staccato tutti, anche quello che era considerato il suo avversario più diretto, Gianrico Carofiglio, con La misura del tempo. Veronesi aveva già vinto il premio Strega nel 2006 con il libro Caos Calmo e quindi è diventato, cara la nostra Alessandra Tedesco, il secondo scrittore di sempre a vincere il premio per due volte, dopo Paolo Volponi. Esattamente, dopo Paolo Volponi, che l'aveva vinto nel 65 e nel 91, questa doppietta storica, insomma, è riuscita anche al grande Sandro Veronesi. Insomma, sottolineo grande anche perché ti anticipo che il libro mi è piaciuto, quindi secondo me è un premio assolutamente meritato. Quindi ne parlerai nel Cacciatore di Libri sabato alle 6.30 e alle 15.30 qui su Radio 24, Alessandra? Certo, lo riproponiamo domani mattina, ma in realtà lui era stato ospite del Cacciatore di Libri proprio appena il romanzo era uscito, esattamente 2 o 3 giorni dopo era stato ospite al Cacciatore di Libri, quindi ti parlo dell'ottobre del 2019, e avevamo parlato appunto del Colibrì, di questo romanzo veramente molto bello, sia per la struttura, non solo per le cose che racconta, ma per il modo in cui Sandro Veronesi le racconta. Il Colibrì è una metafora, no? L'uccellino che è così minuscolo. Sì, è il soprannome che la madre dà a questo bambino, Marco Carrè. Nel romanzo si segue tutta la vita di Marco Carrera da quando è bambino fino a quando poi diventa anziano sostanzialmente, e lui non aveva l'ormone della crescita, quindi la madre lo chiamava in modo, diciamo, affettuoso Colibrì. Ma c'è anche un altro momento fondamentale in cui compare l'immagine del Colibrì, è quando la sua amante storica di tutta la sua vita, la donna che lui ama per tutta la sua vita ma con la quale ha solo ed esclusivamente un rapporto epistolare, lei gli scrive una lettera e gli dice sostanzialmente: tu sei come un colibrì che concentra tantissime energie, tantissime forze per sbattere fortemente le ali, ma per rimanere fermo, immobile in un posto. Senti, e tra l'altro questo libro è per quanto riguarda Veronesi, è, quale suo libro è? Quanti ne ha scritti finora Veronesi? Vabbè, guarda, adesso mi coglio impreparata su questo, però insomma ci sono veramente tanti romanzi che lui ha scritto, e ti devo dire Baci scagliati altrove, Terre rare, poi l'abbiamo già citato, Caos calmo, insomma è uno scrittore sicuramente di grande prolifico carriera. Ecco, mi stavo distraendo perché ho visto adesso che il Campiello, altro premio letterario certamente non importante con il premio Strega, la finale per la prima volta sarà in Piazza San Marco sabato 5 settembre, sì, per ridare il via finalmente agli eventi. È stato annunciato oggi, perché normalmente la, sì, finale del premio Campiello, che è un premio parallelo al premio Strega, diciamo, non facciamo confronti tra Strega e Campiello, sono due premi ugualmente validi, normalmente si svolge al Teatro La Fenice, ma a causa Covid quest'anno bisognava trovare una soluzione alternativa ed è stato annunciato proprio oggi pomeriggio, stasera, durante la presentazione della Cinquina Venezia, che verrà fatta in Piazza San Marco. Marco, quindi anche qui è un'occasione veramente storica. Grazie Alessandra Tedesco, cacciatore di libri, domani alle 6.30 alle 15.30. Ciao Alessandra, grazie. Ciao a tutti. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come come piove, qui piove fortissimo, caro Paolo Corazzoni di Trebimeteo a Milano. Che tempo ci sarà? Dacci buone notizie per il fine settimana perlomeno. Ma sì, dai, cioè poi dipende dalla zona, piove a Milano ma in molte altre no, ecco. Fatto sta che nel weekend in effetti ci sarà un po' di variabilità, eh. Domani al nord torna il sole e nelle regioni centrali ti dirò il weekend sarà bello, perché tutto sommato sole sia domani che dopo, tra l'altro con temperature nella norma, comunque non particolarmente alte, non fastidiose, mettiamola così. È il centro-sud che vedrà domani arrivare i temporali che adesso sono al nord, domattina arrivano nell'Italia centrale. Un po' a te, un po' a me, insomma. Così, brava, esatto, poi arrivano anche al sud tra pomeriggio e sera, però poi a fine giornata domani se ne vanno, quindi domenica meno male anche al centro sud il tempo si mette al bello e dopo 5-6 giorni di caldo intenso anche al centro sud a temperature più sopportabili, quindi insomma bicchiere mezzo pieno mezzo vuoto, ma io ci vedo come sempre la parte mezza piena, dai, lo so tu con questo tono come fai a essere negativo, il nostro Paolo Corazzoni di Trebimeteo. Grazie Paolo, buon tempo a te comunque sia, buon tempo a tutti, ciao caro Paolo. Torniamo alle 22.